periferie. Non è facile, dopo aver sbandato, riprendere il cammino. Il campo da rugby aiuta, ma la vita a volte è feroce con chi ha sbagliato. Ancora Giorgio Terruzzi. Lo sport può essere uno sport come questo, un aiuto. Succede, in questo caso succede che il club nostro, Rugby Milano, accoglie i ragazzi che vogliono continuare a giocare, ed è una grandissima famiglia questo club, e quindi ha molte squadre per ogni fascia d'età, e quindi possono trovare, secondo me, amici, coetanei e gente che li accoglie e che sposta un pochino dall'ambiente di riferimento che spesso determina il reato. In aggiunta a questo progetto, grazie a Edison, Iveco, Milano Carri, metterà a disposizione un po' di posti di lavoro, di stage di lavoro, perché il problema di questi ragazzi è fine pena, cioè cosa fare e come provarci una volta finito il periodo di detenzione. Questa è la fase più critica, cioè secondo me è giusto dare una seconda chance a ragazzi che hanno quell'età lì. Una bomba in piazza, pazzesco. Certo, negli ultimi giorni tiravano una brutale in quartiere. Tu sei Maya, vero? Sì, ci conosciamo. Claudio Faggiano. Vi ricordate di Fame Chimica? È un film girato alla Barone Quarto Giaro, un film che racconta la storia di due amici che fanno scelte di vita diverse, ma soprattutto è un grande affresco dei problemi che rodono le periferie milanesi. Il regista Antonio Boccola. Il nostro film racconta della Barona, perché la Barona è il mio luogo di elezione, il luogo in cui sono cresciuto, però nel film abbiamo composto una periferia che va ben oltre la Barona, tanto è vero che la piazza principale dove si svolge l'azione è Piazza Capuana a Quarto Giaro, e devo dire che è un posto veramente incredibile, perché è una piazza che ha una storia che parte dagli anni 70, una piazza dove era vivo l'associazionismo, dove era molto vitale. Questa piazza in questi ultimi 20-30 anni ha avuto un lentissimo degrado, è oggi un po' la piazza simbolo dell'emarginazione, del degrado e delle vicende legate allo spaccio della cocaina. E inoltre poi anche tutto il vario disagio anche di questi ultimi anni, il non ascolto, la mancanza del lavoro, tutto ciò contribuisce a rendere un luogo più inospitale di un altro. Però in realtà il disagio è diffuso in tutta la città, non esistono luoghi privilegiati. Certo, Quarto Giaro è senz'altro sulla bocca di tutti, tant'è vero che l'altro giorno in prigione al Beccaria, quando parlavo con dei ragazzi proprio su Quarto Giaro, mi dicevano: ma ci stanno tutti con noi perché sono di Quarto Giaro, vengono a colpo sicuro da noi. E certo, è purtroppo un po' così, perché quando si crea il caso è difficile poi rompere il pregiudizio. Rompere il pregiudizio, già, non è facile. Ognuno cerca la sua strada, che può essere suggerita anche dalla musica. La storia di Jerry, un ragazzo che suonando in una band si è lasciato alle spalle San Vittore. Ho conosciuto delle persone che avevano in mano un progetto di musica e mi ci sono affiancato, visto che sono sempre stato affascinato per la musica e strimpellavo la batteria ai tempi. Mi sono riavvicinato a questa bella cosa, diciamo, e niente, seguendo loro e il progetto sono riuscito ad entrare a far parte di un gruppo, abbiamo sviluppato un disco e adesso grazie a loro sono un po' più galvanizzato nel riferimento alla società, soltanto che i ragazzi all'interno ci picchiano duro con l'hip hop, il rap, l'hip hop, e quindi c'è anche bisogno di adattarsi alle esigenze degli altri, e pian piano mi sono adattato e mi sono fatto piacere, diciamo, nella musica hip hop. Questa è la storia di un randaggio made in Valladere, e rima dopo rima ininterrotta continua la mia losca sotto, storia doppia che con coraggio, rispetto, onore, esperienze vive e cresco forte, zero timore di sconfitto. Senti, cos'è che ti piace della creazione di un disco? La collaborazione, le idee, tutto ciò che comunque un gruppo riesce a tirare fuori e riesce a amalgamare, e riuscire a farlo all'interno di quella struttura è stato veramente un successo per noi. Era come un'evasione interna, cioè come evadere veramente da... eravamo in una saletta di registrazioni, comunque all'interno di San Vittore, che è un 2,5x2, e a noi sembrava, cioè pur essendo in 5, in 6, cioè per noi lo spazio era enorme, comunque staccava totalmente dall'ambiente in cui eravamo, finché poi non si riapriva quella porta e si rientrava la realtà. Cosa consiglieresti a altri ragazzi che hanno vissuto una vicenda analoga alla tua? Cercare una passione, di sfogarsi in un qualcosa che non siano comunque i grossi problemi interiori che abbiamo. Cercare di capirli più che altro e riflettere su ciò che si è fatto. Perciò tranquillo, continuo il mio cammino sicuro qui dalla baia dei Re, scuola del pugno duro. Senti, adesso ripensandoci hai la sensazione di aver così scampato un pericolo? Meno male che mi sono tirato fuori. No, il discorso è che io tuttora sto scontando comunque all'esterno della struttura. Al giorno d'oggi non siamo tutti comunque in pericolo, perché ci si può trovare comunque in alcune circostanze non volute e rischiare comunque di rientrare o, che ne so, di farsi del male. Uscendo da quel posto ho aperto un po' più gli occhi, ho notato che il mondo non è poi così semplice come lo vedevo prima. Spero che comunque il sociale, diciamo, possa dar modo almeno ai giovani di potersi reintegrare totalmente anche dall'esterno, senza finire prima in galera per poi pensare a cosa ha fatto o cosa sta facendo. Infine tiriamoci su con una bella storia che viene da via Padova, una storica via milanese che un tempo era periferia, adesso chissà. Di sicuro c'è un gran miscuglio di razze e da questo mix è nata l'orchestra di via Padova, come racconta Massimo Latronico, chitarrista e anima del gruppo. Mi sono trasferito qui in via Padova con la famiglia e tra un trasloco e l'altro vedevo, era una via innanzitutto che io frequentavo molto negli anni 80, perché il mio maestro di chitarra tra l'altro abita tuttora qua. Ho visto questa trasformazione di via Padova al punto che mi sembrava di poter essere in qualsiasi altra città del mondo, a Barcellona, a Parigi, a qualche sobborgo di New York. Perché c'è una ricchezza di etnie, di persone provenienti da varie parti del mondo, ecco. Comincia a conoscere poi altre persone, poi si sparge la voce, diciamo che è nata come gioco, ecco. È stato molto più faticoso casomai il lavoro di organizzazione, perché poi non è semplice, ecco, rispetto a musiche così diverse tra di loro, riuscire ad incontrarsi. Siamo in 16, la musica che facciamo noi la chiamiamo musica meticcia, perché mette dentro linguaggi molto diversi tra di loro. Poi per world music si intendono anche dei generi specifici, ecco. Noi sul genere siamo sui generis, ecco. Ma cosa vuol dire mettere assieme un'orchestra? Banalmente negli incontri quotidiani al bar, quello è uno dell'orchestra di via Padova. questo quartiere, che è un quartiere un po' particolare, fanno bene tantissime cose, ecco. Mi piace pensare che anche l'orchestra faccia bene. Si chiude qui questa puntata di Periferie insieme a Fondazione Vodafone Italia. Nel prossimo appuntamento, sabato alle 13:30, andremo a Bari.